Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Si accusa un sospetto e lui si mostra sorpreso. Come capisco se è sincero o se cerca di apparire innocente? Quella è una sorpresa sincera. Compare sul volto per meno di un secondo. Ma se l'indiziato mostra sorpresa per più di un secondo, sta solo fingendo. Sta mentendo. Ora gli dico qual è il nostro nuovo obiettivo e... Non sai di cosa parli. Scrollata di spalle asimmetrica. Traduzione, non ho fiducia in quello che ho appena detto. Il corpo contraddice le parole, sta mentendo. Guardate le sue reazioni. L'ATF sta passando al setaccio le due chiese più grandi. Avete visto una breve espressione di felicità sul suo volto, anche se ha fatto del tutto per nasconderla. È durata meno di un quinto di secondo. È quello che chiamiamo microespressione. Ma che vuol dire? Come si fa? Guardate la sua bocca. L'indiziato è felice perché passiamo al setaccio con le due chiese, il che ci dice che sono le chiese sbagliate. Osservare, associare, elaborare, risolvere. Buongiorno da Nicoletta, anche se non ce ne rendiamo conto, in più occasioni nel corso della nostra giornata la nostra mente, nel cercare soluzioni, ci spinge a comportarci e a pensare come un investigatore, colui che, come scrive il dizionario Zanichelli, fa delle ricerche, delle indagini per scoprire la verità su un fatto. A volte basta un dettaglio, una parola, un gesto, un profumo e le ricerche partono. Ogni giorno la nostra quotidianità, se ci pensate bene, è colorata di piccoli gialli e noi in modo diverso possiamo giocare il ruolo di colpevole indiziato investigatore. Provate a pensarci anche voi e iniziate a ricordare i dettagli di quella storia in cui avete scoperto che o qualcuno ha scoperto che voi. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. Buttatevi, perché noi oggi abbiamo un paracadute, o meglio una guida, perché in studio qua con me ho Donato Carrisi. Ciao, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Uno scrittore da migliaia di copie, da decine di premi, un autore di thriller che se la gioca alla pari con i grandi maestri. Così solitamente si scrive e si dice di te, Donato. La cosa mi mette assolutamente in imbarazzo, perché io fondamentalmente sono un timido, però mi fa anche piacere. So che fa piacere alla mia mamma quando me lo dico. Allora salutiamo la mamma di Donato. Senti, di te si leggono tante cose. Si dice ad esempio che ti sei tatuato una stella nera su un braccio e che è dedicata a una collega del Sole, che è la madrina di tutti i giallisti, Laura Grimaldi. Laura Grimaldi, che è stata la prima a recensirmi, e uscì questo articolo straordinario con un titolo fulminante: Carrisi è nata una stella nera. E quindi non potevo fare a meno di tatuare questo simbolo sul braccio destro. Ed è una cosa che, per esempio, mi chiedono di mostrare quando vado all'estero, perché non ci credono, e allora sono lì che mi spoglio, faccio questo strip. Poi la possiamo fotografare anche noi, la facciamo vedere ai nostri ascoltatori. Ma sicuramente. Dai, dai. Allora, dopo la diretta, Laura Vanossi arriva subito con la sua foto. Però c'è anche chi dice che sei il fiorello della letteratura. Anche questa è una cosa che mi fa sorridere molto, perché sai, un uomo che ha una formazione da criminologo, insomma, è un complimento strano. In effetti sì, perché quando faccio queste performance per presentare i miei libri, mi piace anche far divertire con la criminologia il pubblico presente. E ancora, chi ha definito i tuoi libri genere spaghetti thriller? Beh, bellissima come definizione, perché potrebbe sembrare riduttiva. Invece, se pensiamo allo spaghetti western, pensiamo a Sergio Leone, un uomo che ha messo un punto ad un genere che neanche aveva inventato, non avevano inventato gli americani, ma dopo i suoi film nessun altro è riuscito più a fare western in America. E senti, e tu come ami definirti? Ma queste definizioni mi calzano. Va bene, abbastanza... tutte e tre, le prendiamo tutte e tre. Ma vanno bene. Va bene. Allora, la sfida di oggi, cari amici, è: c'è un piccolo Donato Carrisi che sonnecchia in ciascuno di noi. Ogni giorno possiamo vivere o descrivere un piccolo giallo. 800 24 00 24. Qua in studio con me abbiamo anche un medico, la dottoressa Giovanna Luini, che è medico responsabile della comunicazione scientifica di EO. Perché? Perché ho pensato che tra uno scrittore di gialli e un ricercatore, un medico, insomma, ci siano tanti punti in comune, perché anche il medico va alla ricerca, partendo da degli indizi, possiamo dire i sintomi, va alla ricerca della causa e quindi della verità. Fate più o meno lo stesso lavoro? Sì, buongiorno a tutti e buongiorno alla mamma di Donato. L'avete salutata voi, la saluto anch'io. Adesso tutti saluteranno la mamma di Donato. È vero, c'è una grande similitudine tra l'investigatore e il medico. È la parte che preferisco della medicina, quella di mettere insieme osservazioni varie, non necessariamente osservazioni che stanno sui libri, e da lì trarre una diagnosi e quindi un possibile aiuto per il paziente. Allora, quindi se voi avete voglia di tirare fuori l'investigatore che c'è in voi, chiamateci, perché tutti voi, tutti noi, ogni giorno ci mettiamo a confronto con dei piccoli gialli, no? Possiamo controllare il figlio se va a scuola o se invece da buca marina. Cerchiamo di cogliere nella persona che incontriamo dei dettagli, no? Dei segnali che ce la fanno, no? Rendere più amica, ci dicono che ci danno indicazioni sulla fiducia che possiamo riporre in lei. Quindi possiamo giocare a più piani nelle relazioni di lavoro, in quelle familiari. Possiamo anche cercare di indagare noi stessi, perché questo facciamo quando avvertiamo un dolore, ci confrontiamo con un sintomo di cui cerchiamo di arrivare spesso da soli alla diagnosi. 800 24 00 24. C'è qualcuno che sta cercando di scoprire cose di noi, e noi in modo più o meno consapevole cerchiamo di scoprire dettagli e segreti della vita che ci sta accanto, per passatempo, per pura curiosità, per interesse, per amore, per vendetta, per necessità. Su cosa o su chi state indagando, o chi invece pensate stia cercando notizie di voi? Dov'è che ho sbagliato? Prima, nella locanda, tu hai precisato che detesti il rosa. E lei non aveva mai detto che le scarpe erano rosa? No, non l'avevo detto. Ma se può esserti di qualche sollievo, io lo sapevo già che l'avevi ucciso tu. Ma perché? Perché ogni indizio mirava scopertamente a far cadere i sospetti su Nan. Tenente Colombo, polizia. Io credo di essere troppo sospettoso. Non mi fido mai della gente, e questo è il problema. Fa tutto parte del mestiere, si tratta sempre di far combaciare dei fatti. Riprendiamo allora le nostre parole chiave: osservare, associare, elaborare, risolvere. Servono a descrivere il compito di un investigatore, ma se ci pensate, gli stessi passaggi li facciamo noi quando, dicevamo, ci relazioniamo con un'altra persona. Donato, si dice sempre, la prima impressione è quella che conta. Non so se conti, ma ci condiziona. Ci sono persone che ci ispirano simpatia e fiducia, altre invece che ci buttano subito male, no? A pelle non... io volevo sapere da te che cosa guardi, perché tu vivi un po' di dettagli, poi tra l'altro sei criminologo, hai una specializzazione in scienza del comportamento, per cui insomma sei uno che la sa lunga. Beh, è una deformazione quella di osservare gli altri quando hai studiato determinate materie, e la prima cosa che ti insegnano è proprio questa, di non fermarti alla prima impressione, perché è proprio la prima impressione la più sbagliata in assoluto. Prendiamo la figura criminale più nota al grande pubblico che legge thriller, per esempio i serial killer. Ecco, tutti pensiamo che siano dei mostri, anzi li definiamo molto facilmente mostri. Il fatto che siano mostruosi però contrasta con la loro serialità. Se davvero fossero mostruosi saremmo in grado di riconoscerli, e quindi non sarebbero seriali. Se riescono ad uccidere così spesso vuol dire che sono normali, anzi più normali della media, a volte più normali di noi. Senti, ma tu su che cosa punti per affascinare, attrarre, destare l'attenzione? Ma io... Perché tu che sei maestro anche un po' nel linguaggio del corpo, e in fondo oggi parliamo anche di questo. Beh, tendo a cogliere dei dettagli in chi mi ascolta e da quello poi costruisco un ponte per l'attenzione, perché poi di questo si tratta. Mi avvicino gradualmente a chi mi sta ascoltando raccontandogli cose di sé. La persona che mi ascolta non è consapevole di questo. Quando io parlo del male, non parlo di un male assoluto, un male generico, ma parlo di un male riconoscibile, il male che è in ciascuno di noi. Dottoressa Luini, quindi tutto questo Luis lo sta giocando anche con noi. Sì, direi di sì, ci sta osservando e chissà cosa pensa. Intanto voi segnatevi questi dettagli, questi suggerimenti di Donato Carrisi, fatene tesoro, sono suggerimenti di un grande scrittore, esperto raffinato di queste regole di un gioco che affascina da sempre l'uomo, il gioco del bene e del male. Io vorrei chiedere però a Donato Carrisi di sottoporsi ad una sorta di questionario, perché in linea con noi, giochiamo a carte scoperte, abbiamo il dottor Francesco Aquilar, che saluto. Buongiorno dottor Aquilar. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori e gli ospiti. Psicologo e psicoterapeuta cognitivo, esperto del nostro Daily Lab, viene spesso a trovarci nella nostra trasmissione. Oggi, dottor Aquilar, vogliamo imparare a capire e usare i dettagli che a volte possono fare la differenza, no? E quindi ad aiutarci ad avere delle relazioni più efficaci. Allora proviamo a capire che cosa fa lei di fronte a Donato Carrisi, perché lo psicologo, per capire, fa anche, no, investiga, fa delle domande e dalle domande poi elabora delle idee, giusto, dottor Aquilar? Certamente, come no. Allora, Donato Carrisi è pronto, via con la prima domanda. Qual è il primo pensiero quando ti siedi per scrivere una nuova storia? Io quando mi siedo per scrivere una nuova storia penso esattamente al finale, penso come deve finire questa storia, perché l'inizio è strettamente legato al finale. Hai mai paura di ricercare qualcosa che non vuoi trovare? Sempre, anzi è la costante forse del mio lavoro. Molto spesso trovo cose e non avrei voluto trovarle perché hanno un'incidenza notevole nella mia vita. È questo che succede scrivendo. Quale oggetto rappresenta di più la tua vita di scrittore? Sicuramente una vecchia penna, perché io penso alle parole che sono passate attraverso quella penna prima di me e penso che dovrò tramandarla insieme a ciò che scrivo. Quale paese vuoi scoprire e ancora non hai raggiunto con i tuoi libri? La fortuna è non saperlo, esattamente. Il segreto più misterioso del cuore di una donna? Beh, il segreto più misterioso del cuore di una donna è sapere per quanto tempo ti amerà. L'ultima volta che hai sognato ad occhi aperti? Adesso. Dottor Aquilar. Belle risposte. Belle risposte, belle domande. Perché si muove sulla costante attenzione all'effetto sull'interlocutore della frase detta. Possiamo fare anche un piccolo, come dire, bilancio delle risposte che Donato Carrisi ha dato. Intanto, quando pensa al finale, nel momento in cui fa una storia e che focalizza l'attenzione su quello che sarà l'oggetto della curiosità centrale del lettore, quindi lui sviluppa un processo di decentramento, si sintonizza sulla mente del lettore, e come il lettore, dopo essersi appassionato, vuole sapere come andrà a finire, lui comincia a strutturare le cose proprio sulla curiosità del lettore, che lo muove a passare tempo leggendo un libro giallo. Quindi abbiamo a che fare sia con i meccanismi della creatività che con i meccanismi della narrazione, che con i meccanismi del decentramento cognitivo, mettersi nei panni dell'altro e sintonizzarsi con questa situazione. Poi le altre risposte sono molto graziose, perché tutti abbiamo paura di trovare qualcosa che non vogliamo trovare, sia in noi stessi che negli altri, perché la penna ci rappresenta simbolicamente tutto quello che è l'arte della scrittura fin dall'antichità, e perché i paesi che vogliamo trovare, lui dice, la fortuna è non saperlo, quindi in qualche modo, come molti creativi, scopre prima dentro di sé quello che di volta in volta gli piacerà vedere, e sta sognando ad occhi aperti anche adesso. Mentre invece sul tema carino della vostra domanda trabocchetto sulla cosa più bella che c'è nel cuore di una donna, mi piace riferirmi invece un secondo alla vecchia idea di Chaucer nei racconti di Canterbury, e che la donna vuole la stessa sovranità sia sul marito che sull'amante. Fantastico, dottor Aquilar, ha lasciato Donato Carrisi a bocca aperta, ma io volevo chiederle, come possiamo tradurre in indicazioni per noi, perché per le persone che ci stanno ascoltando e che possono intervenire, ricordo, all'800 24 00 24, come possiamo tradurre in consigli quelle che sono state le risposte di Donato Carrisi, che mi sembra che stia facendo centro in tante, no, in tante situazioni. Al primo posto il suggerimento è per ogni ascoltatore di provare a sviluppare la sua creatività, in qualsiasi modo, perché la nostra creatività non soltanto ci aiuta ad essere più soddisfatti, ma ci riduce anche i disturbi psicologici che abbiamo. Quindi il primo suggerimento è siate creativi senza paura. Sì. La seconda cosa è che possiamo fronteggiare la paura. Donato Carrisi ha paura di cercare qualcosa che non vuol trovare, ciò nonostante continua a cercarlo, nel senso che noi possiamo essere aiutati dalla paura, ma non dobbiamo farcene sommergere. Certo. E l'altra cosa ancora più bella è che l'esplorazione la possiamo fare nella geografia del mondo, ma l'esplorazione più divertente e più bella è quella di esplorare meglio noi stessi per poter trovare delle cose sorprendenti da sviluppare, per essere più contenti del nostro autorealizzarci. Ecco, questi potrebbero essere tre suggerimenti. Donato. Beh, esattamente, questo fatto della ricerca in se stessi però può approdare a cose che spesso non ci piacciono affatto. Insomma, è sempre un confronto difficile quello con, per esempio, il lato oscuro di sé. Ci sono molte persone che negano di possedere un lato oscuro e non fanno i conti con esso, e sono costretti prima o poi a fare i conti con esso. Quindi questa geografia di se stessi è essenziale. Io ho notato che scrivere di determinati argomenti aiuta a far emergere una parte di sé che spesso si nega o che viene fuori quando meno ce lo aspettiamo, e aiuta anche ad affrontarlo, e aiuta anche a leggere storie di questo tipo. Non è mai morbosa la lettura di un thriller o di un giallo, o anche il fatto che ci incuriosiscano fatti di cronaca. Molto spesso viene condannato questo atteggiamento, invece è un modo per guardarsi allo specchio, per guardarsi in uno specchio nero. Allora, io inviterei i nostri ascoltatori a raccogliere l'invito del dottor Aquilar e di Donato Carrisi, e naturalmente a cui si associa, immagino, anche la dottoressa Luini, che oltre a essere medico è anche scrittore. Proviamo oggi ad avvicinarci e a parlare, a guardare in faccia il nostro lato oscuro. Voi chiamateci 800 24 00 24. Ho qua il libro di Donato Carrisi che riceverà l'ascoltatore che più ci colpisce nella descrizione del suo lato oscuro. Quindi 800 24 00 24, chiamateci e raccontateci il vostro lato oscuro e come vi avvicinate a questo lato oscuro. Donato Carrisi diceva, ad esempio, anche attraverso la lettura, naturalmente, lui è uno scrittore. La dottoressa Luini, come ci si può avvicinare al lato oscuro? In tanti modi, basta che siano controllati, però concordo con Donato, una cosa importante per esempio è seguire alla televisione o su internet fatti di cronaca senza enfatizzarli, però stando attenti ai dettagli. In questo modo possiamo in parte soddisfare una curiosità fisiologica, in parte vivere in modo indiretto il nostro lato oscuro. Dottor Aquilar? Prima di salutarci, un suggerimento per dare in là ai nostri ascoltatori che possono ricevere a casa autografato il libro di Donato Carrisi, e quindi proprio lui diceva attraverso la lettura veniamo a conoscenza del nostro lato oscuro con cui possiamo fare pace, no? E che ci serve. Assolutamente, possiamo fare pace, questo ci aiuta, e possiamo farlo insieme ad una persona alla quale vogliamo bene. Il modo per guardarsi nello specchio nero e poi farlo diventare via via grigio e anche colorato è farlo insieme a qualcuno che ci faccia da amico e da avvocato e che ci aiuti a esprimerlo e di conseguenza a ridimensionarlo. Grazie dottor Aquilar. Allora, grazie a voi e a tutti gli ospiti. Noi ci sentiamo presto, intanto affacciatevi nel vostro specchio nero, raccontate che cosa vedete, chi vi sta accanto. Abbiamo qua in studio Donato Carrisi che selezionerà i vostri racconti, e è un modo anche per far pace con quella parte di noi che spesso teniamo lontano e che spesso ci fa inciampare portandoci in situazioni assolutamente difficili da gestire. Anticipiamo, guardiamo, apriamo gli occhi. Essere e benessere. alla ricerca del nostro lato oscuro. Ma che cosa intendiamo per lato oscuro? Sentiamo una definizione da Donato Carrisi, scrittore, e da un medico ricercatore, la dottoressa Luini. Donato. Noi pensiamo che il lato oscuro sia qualcosa di separato da noi, qualcosa che possiamo distinguere. Ecco, già definirlo lato oscuro, già definirlo lato, ci sembra, no, quasi di avere la possibilità di creare una distanza. Invece no, è qualcosa che è profondamente radicato in noi, che fa parte di noi, che si manifesta quando meno ce l'aspettiamo, anche nelle piccole cose, nelle piccole cattiverie. Non è necessario uccidere per manifestare il proprio lato oscuro. Basta essere un po' subdoli o sadici nei comportamenti quotidiani, basta una bugia detta per ferire qualcuno, oppure un pettegolezzo a volte sembra quasi innocuo, invece poi produce degli effetti sulla vita di qualcun altro, cose di cui siamo consapevoli anche se non siamo in grado di ammetterlo. 800 24 00 24. Lato oscuro è l'istinto. Esiste una parte dell'istinto che riteniamo socialmente e affettivamente accettabile, e quindi la riteniamo buona, la definiamo buona. C'è un'altra parte che è altrettanto vera e non si può eliminare, che definiamo oscura, perché probabilmente ci fa pensare, desiderare, sognare cose che riteniamo sbagliate. Luca da Roma e Monica da Milano. Luca, buongiorno. Buongiorno. Io ho ascoltato quello che hanno appena detto in trasmissione e sì, condivido che il lato oscuro è una parte che ci appartiene, è una parte che sta dentro di noi, talmente profonda che noi non sappiamo riconoscerla, però vediamo i suoi effetti, e il lato oscuro principalmente secondo me ferisce proprio noi, cioè ferisce e danneggia proprio noi stessi, e poi di conseguenza può agire anche sugli altri, ma è un boicottaggio che agisce proprio contro di noi. Lei come si avvicina al suo lato oscuro? Ma io mi ci avvicino attraverso l'analisi. Credo che l'analisi sia un ottimo percorso per poter fare un po' di luce negli spazi più bui che abbiamo dentro. Donato. No, il lato oscuro non è così profondo. In realtà è molto in superficie il lato oscuro e agisce nella nostra vita. Vorremmo che fosse profondo. Io faccio un esempio: i bambini, per esempio, no? I bambini uccidono con nonchalance le formiche, perché sono consapevoli che nessuno li sgriderà per questo, e sono consapevoli di togliere nello stesso tempo una vita, e lo fanno con un istinto sadico. Ecco, questo è un lato oscuro, chiaramente in una forma embrionale che emerge, che viene fuori, non c'è alcuna conseguenza per questo comportamento sadico. Il lato oscuro è presente e contagia gran parte dei nostri comportamenti, ma è difficile ammettere una coesistenza tra noi e il nostro lato oscuro. È difficile anche proprio identificarlo, dargli un nome, perché spesso il lato oscuro è il prodotto di tante piccole cose. Esattamente, ma quando noi lo riconosciamo negli altri, per esempio, siamo abituati ad attribuire loro un'etichetta. Chi uccide viene definito mostro o pazzo, ecco, queste sono le etichette più semplici, quando invece abbiamo a che fare con persone che mostruose non sono neanche pazze, sono esattamente come noi, ma abbiamo la necessità di distinguerle da noi, abbiamo la necessità di dire, ecco, io non sono così, lui non è come me, e creiamo questa etichetta che poi identifica la distanza. Però come siamo in grado di riconoscerlo negli altri, dovremmo essere in grado di riconoscerlo in noi stessi. Ritorniamo a quello specchio nero e al nostro numero verde, invece 800 24 00 24. Abbiamo Monica che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Tutti i discorsi che sono stati fatti li condivido, e la mia esperienza è questa, purtroppo triste e drammatica, che magari davanti a una persona cara, una nipote, una sorella, io inizio a fantasticare una storia che purtroppo non è a lieto fine, ma finisce male, e questo mi rattrista sempre e mi fa piangere proprio. Che cosa vorrei un tuo commento, Donato, a questa storia, che Monica sembra offrire degli spunti anche, no? Per il personaggio di un noir, no? Beh, perché sì. È un po' quello che uno scrittore fa quando, no, vuole scrivere una storia. Tu dicevi parto dalla fine, lei naturalmente dice questo lato oscuro è solamente un pensiero con cui si confronta e che le crea naturalmente disagio, ma lei scrive una storia, un po' come scrivi tu. Con un finale negativo, ma io penso che sia più pessimismo che sadismo. Bisogna distinguere le cose, perché nel caso del sadico si prova piacere nell'immaginare un finale negativo, per esempio, ad una fantasia che riguarda una persona anche a noi molto cara. Se si prova un certo piacere, allora si va nella sfera del lato oscuro. Se questo piacere non c'è, insomma. E poi alcuni ascoltatori mi stanno scrivendo: forse può essere utile non solo guardarlo negli altri, ma capire quando viene fuori, in quali occasioni, no? Ci sono delle persone, ad esempio, che ti tirano fuori magari il tuo lato oscuro. Beh, c'è anche l'evento negativo, tipo una malattia, che ti costringe poi a guardarti dentro. Capita spesso alle persone che incontrano sul loro percorso una malattia grave che inizino un percorso di elaborazione di se stesse, e di solito la reazione che porta poi a una maggiore salute prevede anche che queste persone affrontino i loro istinti, anche quelli negativi, e abbiano il coraggio di parlarne. Adesso riflettevo su Monica, che ha telefonato a una radio e ha dichiarato un proprio pensiero tra virgolette oscuro. Ecco, la condivisione, quindi tirar fuori, descrivere ciò che abbiamo dentro, spesso aiuta anche dopo una malattia. La condivisione aiuta, secondo te, Donato? Tantissimo, tantissimo, è essenziale. Chi dice di non possedere un lato oscuro, chi dice di essere in pace assolutamente con se stesso e con gli altri, è pericoloso per sé e per gli altri. E a proposito di condivisione, vediamo se anche le nuove tecnologie che ci mettono, no, nella condizione di condividere ci fanno ci permettono di investigare gli altri, ma anche ci regalano quel piacere sottile di essere sempre, no, investigati da altri, se ci aiutano in qualche modo a tirare fuori anche il nostro lato oscuro. In linea con noi abbiamo il professor Fausto Colombo, ordinario di teorie tecniche dei media alla Facoltà di Scienze Politiche Università Cattolica di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Prima di farle una domanda, o intanto prima di lasciarle intervenire, io devo subito fermarmi perché oggi devo fare la brava, ieri ho sforato, mi hanno tagliato, devo dare la linea alle informazioni sul traffico. Intanto però vi ricordo, voi continuate a specchiarvi. Donato Carrisi vi ha già detto: chi dice che non ha un lato oscuro, attenzione, quindi tirate fuori il vostro lato oscuro, chiamateci subito, diteci come ne prendete consapevolezza, visione, chi vi aiuta, con chi lo guardate, perché Donato Carrisi non uscirà da questo studio se non prima di aver scelto chi di voi riceverà a casa il suo ultimo libro, La donna dei fiori di carta, Longanesi Editore, 350.000 copie, novità, eccetera, fantastico, straordinario, come sempre un successo, ma con dedica, e dedica è assolutamente misurata e calibrata. Essere e benessere. Professor Colombo, ma eccomi qua. Questo Facebook, insomma, le nuove tecnologie, si chiamano così, lei che è un tecnico, io sono sempre un po' di qualche passetto indietro. Ci aiutano in qualche modo, descrivono il nostro lato oscuro, ce lo mettono in piazza, ci fanno prendere contatto, lo fanno vedere agli altri? Sì, più che altro pare che abbiano reso pubblico una prassi condivisa, quello di mettersi in piazza e spiare nella piazza i comportamenti altrui. Ma direi la cosa più sorprendente non è che siamo diventati un po' tutti voyeur, perché forse lo siamo sempre stati, ma che siamo anche contemporaneamente diventati un po' tutti esibizionisti, no? Raccontiamo in automatico sui social network dove siamo, cosa stiamo facendo, cosa stiamo pensando, cosa ci piace, che gioco stiamo facendo, chi sono i nostri amici, chi conosciamo, dove abbiamo studiato, e via discorrendo. Donato, ma tu che sei sempre alla ricerca di stimoli, indizi, eccetera, da Facebook uno scrittore di noir come te riesce a tirare fuori degli spunti? Tantissimi, Tantissimi, perché c'è una regola non scritta alla base di questo social network. Io ti do una parte di me se tu mi dai una parte di te. Ma che parte di me ti sto dando? Sono assolutamente sincero mentre scrivo di me su Facebook, mentre mostro le foto della mia vita privata? Quasi mai. È una verità su se stessi che viene edulcorata, che viene modificata, che viene resa, come dire, pubblica con una forma diversa, che non è mai autentica fino in fondo. E questo lo si accetta anche dagli altri, per cui credo che Facebook sia la vetrina del lato oscuro, la vetrina perfetta del lato oscuro. È d'accordo, professor Colombo? Sì, sì, abbastanza. Diciamo, perché non c'è niente di diverso da quello che facciamo quotidianamente. Noi ci mostriamo agli altri per quello che vorremmo essere, per quello che ci interessa dimostrare. Mi sembra che la differenza forte di Facebook è la richiesta continua, e il fatto che uno è obbligato in qualche modo, si obbliga meglio a fare questo lavoro di presentazione di sé, certo, come dice Carrisi, con tutte le anche le falsità vere o presunte, volute o non volute, ma lo fa continuamente, lo fa con una pressione di cui nemmeno ci si accorge. È davvero un atteggiamento di confessione pubblica, continua, e esattamente come le confessioni davanti all'Inquisizione, non si sa mai se quello che si dice è proprio quello che mi è estorto, quello che io dico spontaneamente, quello che voglio che l'altro pensi, quello che dico per soddisfare le pulsioni dell'altro, le richieste dell'altro. Ho i nostri ascoltatori che vogliono, voglio intervenire, Donato. Volevo dire semplicemente una cosa, che puta caso, che cosa si fa adesso quando un assassino viene catturato, viene smascherato dai media? Si va subito a vedere la pagina Facebook, se ha una pagina Facebook, e quello che appare su Facebook quasi mai corrisponde a quello che poi risulta dalle cronache dei media, sull'assassino o sulla vittima in questione. C'è questo gioco stranissimo, ecco perché dicevo Facebook è il nostro specchio nero, perché racconta una parte di noi che diventa inquietante proprio dopo le nostre azioni. Adesso penso che adesso quando andremo su Facebook ci... Maria Teresa da Genova, buongiorno, Anna Rita da Roma e Alessandro da Torino. 800 24 00 24, continuate a chiamare. Maria Teresa, rapidamente. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto complimenti a Donato Carrisi, perché io ho letto i suoi libri. Grazie. E sono veramente meravigliosi. Grazie. E lo baceremo per lei. E le manderemo la foto della stella nera. Grazie. Il mio lato oscuro viene fuori innanzitutto quando mi arrabbio, ma poi una cosa che mi ha fatto riflettere durante questa trasmissione è che ho notato, ad esempio, durante le assemblee condominiali, che viene fuori il lato oscuro di quasi tutti i partecipanti, nel senso che la mattina magari si incontra la vecchietta, tutti sorridenti, esattamente, alla sera quando c'è questa riunione invece scoppia un putiferio e si vedono, si affilano i denti, si trasformano i visi. Maria Teresa, lei, questo è il contributo di Maria Teresa. Anna Rita da Roma, Anna Rita, buongiorno. Buongiorno. Mi colpiva invece, mi ha colpito molto questo accenno alla relazione tra la scrittura come qualcosa che può tirare fuori un lato oscuro a nostra insaputa, no? Sì. Quasi senza consapevolezza, appunto. A me è capitato, scrivendo di una questione che mi stava particolarmente a cuore, in cui la figura che mi stava a cuore era un bambino, sì, una persona un tempo bambino, a un certo punto, continuando in questo, diciamo, attività, di improvvisamente definirlo un piccolo bastardo. Una cosa veramente... come se la scrittura, no, si fosse materializzata quasi fisicamente, mi avesse preso questa mano e avesse definito questo piccolo, che inizialmente era il cucciolo della situazione, un piccolo bastardo. Donato Carrisi sta prendendo nota. Andiamo ad Alessandro che ci chiama da Torino. A chi vuole intervenire? 800 24 00 24. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie a lei per la possibilità di intervenire. Allora, io devo riportare una mia esperienza che, grazie all'analisi in passato, sono riuscito fortunatamente ad esorcizzare e ad elaborare. E da bambino mi capitava spesso, prima di addormentarmi, di trovare conforto e piacere nell'idea della morte e quindi nella sofferenza e nell'attenzione che avrebbero avuto i miei parenti immaginandomi al mio funerale. Questo è il pensiero oscuro tremendo che avevo da ragazzino, sì, e che per non fortuna, grazie grazie all'intervento di, dell'analisi sono riuscito ad esorcizzare. Penso che parlarne sia la cosa più importante. Grazie Alessandro. Sentiamo Donato, Maria Teresa, lato scuro, assemblee condominiali, Anna Rita, la scrittura l'ha tirata fuori, aveva una mano che la guidava fino a definire questo bambino, il cucciolo, un piccolo bastardo, Alessandro, il funerale. Il condominio è la piccola comunità. E la piccola comunità funziona esattamente come una famiglia, se vogliamo. Sono persone che sono molto vicine, ma nello stesso tempo lontanissime, anche se siamo separati da muri, da mura sottilissime, e che dobbiamo affrontare prima o poi. L'assemblea condominiale è un po' questo embrione dove vengono affrontati tutti questi drammi. Per quanto riguarda il secondo caso, insomma, direi il secondo e il terzo caso, direi che sono interessanti, ma meno dell'assemblea condominiale. Che allora, Maria Teresa, il libro autografato di Donato Carrisi, La donna dei fiori di carta, Longanese Editore. Voglio salutare e ringraziare il professor Colombo. Grazie professore. Grazie, buongiorno. Ci sentiamo presto. Voglio ricordarvi e voglio proporvi in modo molto chiaro un incontro, uno spettacolo che si terrà al Teatro Nuovo, lo spettacolo Kaveman, organizzato dallo IEO. Andate sul sito IEO, c'è un'iniziativa molto interessante. Grazie a Donato Carrisi e alla dottoressa Luini. Vi saluto, grazie. Sono puntualissima e vi aspetto come sempre domani. Buona giornata da Nicoletta. Essere e benessere.